Siamo in missione per conto di Dio. Mattino di Luca Telese. Ferrovie bloccate, autostrade ingorgate, sale, neve, cortocircuiti. Dopo lo stupore candido della neve, l'Italia è in tilt. Si mandano tutti a fare, diciamo, dei giochi senza frontiere organizzati dal Movimento 5 Stelle. Sembra tutto fuori fuso orario la politica italiana di queste ore. Reintrodurre il sabato fascista, insomma. E apriti cielo! Mentre entra il ruggito, il miagolio felino del grande Oscar Giannino. Lo faccio io allora. Ma il mio sarebbe più dolce. Allora, alla fine, ce l'ha fatta. Forse sono stati i media e i giornali che hanno sparato un mucchio di cazzate. Ma chi se ne frega? Ecco, parta tutto, subito soft. Pirellone comparse una notte da scritta Family Day. Non ha ben vigilato, secondo lei. Esatto. Telese, lei intellettualmente è un po' disonesto. Cioè, questo qui parlava, c'erano sulle vittime, 60 vittime su, e questi cazzo giocavano, parlavano, non lo cagava nessuno. Quindi ti faccio questa domanda: se il tuo datore di lavoro ti dicesse qual è la tua risposta? Luca, non facciamo come quando sei in televisione a condurre, come la tua domanda per me è sbagliata. Il fascismo al momento, il selfie della nazione, dai, su. Sì, ho capito, ma tu poi ti parcheggi a fianco quello con lo stereo a palla. Ti piace ma lo Stato con le regole? Paga. E come fanno i ragazzini che prendono i successi e regalano nuove parole? Reach out and touch me. Popolo dei già svegli, buongiorno, siamo qui di prima mattina con voi, dopo la neve, dopo la tempesta è arrivata anche l'alluvione, mezza Italia si sveglia sotto l'acqua, sotto la grande minaccia dell'acqua, e noi ci troviamo in emergenza energetica, un'esplosione, ovviamente avete seguito questa vicenda, rompe il filo del gas che arriva dalla Russia e ci interroga sulle nostre scelte energetiche. Tante domande importanti, ma poi arrivano loro, i Jedi, l'anteprima del film che vedremo nel fine settimana, e sarà il filmone evento del Natale, ma è un po' una marcord, un punto di identità di diverse generazioni. Ricordate che cosa diceva in quell'episodio? Usa la forza, Forse è un classico ormai, la forza è dentro tutti noi e bisogna solo trovarla. Allora oggi mi appoggio alla sapienza di Giulio Cavalli, attore, opinionista, editorialista di Fanpage, padre di famiglia e ovviamente anche lui uno della generazione Jedi. Quando hai visto il primo Star Wars? Ero molto piccolo, in realtà ci avevo capito molto poco. Poi crescendo ho capito che è una metafora della politica italiana. Esatto, esattamente così. Va bene, parleremo anche di questo. E arriva anche la carica di tre cinepanettoni in guerra uno contro l'altro. È tutto molto divertente. Però con l'appoggio di Bono entriamo dentro il filtro misto del giorno. Sono gli U2, Summer of Love. The winter. Secondo voi da chi è ripreso? La sindaca di Colorno, sentito sui danni e la pioggia. I danni sono agli esercizi commerciali, alle abitazioni a piano terra, c'è il portone della Reggia che sembra l'uscita di un canale, quindi considerate che tutto il piano terra della Reggia è pieno di impianti sofisticati, l'acqua è talmente tanta che benché i sacchetti siano stati messi, ormai l'acqua si sta portando via anche i sacchetti. 1000 evacuati a Brescello, nel paese di Peppone e Don Camillo. Caro Giulio, l'acqua nemico, oggi nemico. Beh, tra l'altro sono stati alluvionati dall''Ndrangheta da qualche anno fa. È vero, è vero. Adesso tra poco con la campagna elettorale ricomincerà questa solfa della grande opera che è la manutenzione del territorio, che tutti pronunciano e nessuno pratica. È vero. E allora prepariamoci al peggio. Ricordate i vostri messaggi 349-238-6666 ed entriamo proprio su quella scena di Don Camillo, la processione durante l'alluvione, bianco e nero, una grandissima visione cinematografica italiana. Gesù, se le poche case oneste di questo porco paese potessero galleggiare come l'arca di Noè, io vi direi: fate gonfiare il fiume che strabocchi, che spacchi l'argine e sommerga tutto il paese. Ma siccome la gente onesta vive in case uguali a quelle dei farabutti, e sarebbe ingiusto punire i buoni per la colpa di questo peppone e della sua ciurma di senza Dio e senza legge, così vi prego di salvare il paese dalle acque e di dargli prosperità. Amen. Amen. Eh sì, non siamo più l'Italia di Peppone e Don Camillo, io aggiungo purtroppo, siamo l'Italia della ferocia, delle alluvioni e delle crisi energetiche, delle piccole e grandi guerre civili, caro Giulio. Eh sì, tra l'altro siamo l'Italia, se ci pensi, che è, su, per quanto riguarda le infrastrutture, se portano fatturato, ci sono eserciti di lobbisti e politici che sono pronti a scendere in campo, diciamo così, per costruire il più velocemente possibile. Se si tratta invece di manutenzione degli affetti e del territorio, l'esercito è molto meno potente. Senza dubbio. Tremonti contro la patrimoniale, via maestra per il comunismo. Io ho come l'impressione che saltano le banche e le assicurazioni, all'aria perché che in questo momento di squilibri terribili togliere liquidità da quel settore significa farlo saltare, quindi sarebbe la via maestra per il comunismo. Se mettete una patrimoniale, avvertite che salta il sistema italiano. E sai che c'è grande polemica su questo albero che ormai da tanti anni sta nel centro di Piazza Venezia, il simbolo del Natale a Roma, quest'anno è stato ribattezzato Spelacchio. Sentite Geregnocchi che ironizza su questo. La Raggi ha difeso strenuamente l'albero di Natale Spelacchio, non so se l'hai visto, sì. Ha detto che rispetta gli standard ambientali, infatti lo hanno recuperato da un cassonetto. Che dici? Albero sobrio e virtuoso, come dicono i sostenitori della Raggi, o grande debacle perché dovrebbe esserci una cosa smagliante come quello che a Milano è stato preso addirittura con una sponsorizzazione di Sky, che dici? Ma è da portare, secondo me, alla Biennale di Venezia, è una delle più grandi metafore artistiche sulla nostra vita degli ultimi anni. Cioè, nel senso che, se ci pensi, è povero, è abbastanza disperante, oltre che disperato, a guardarlo, e più è costato tantissimo. E allora dovrebbe essere veramente un'opera volontaria, cioè non l'hanno fatto apposta così. Però io una lo difendo. Si tagliavano i quadri, oggi si disadornano gli alberi. È vero, però lo difendo perché non ci può stare un albero rigoglioso in tempi così disperati. Allora senti, Richetti contro Di Maio. Ma mi spiegate che cosa stiamo temendo? Io vi consiglio l'intervista di Di Maio. Da Farage a Macron, mi piace la definizione di forza on demand. Prendiamo dagli altri quello che ci piace. Ma sì, un po' di Farage, un po' di Macron, un po' di fuori dall'euro, un po' di rafforzamento dell'euro. Ma chi se ne frega? L'importante è raccattare un po' di voti. Ma noi abbiamo veramente paura di questo. Cioè, il Partito Democratico oggi trema di fronte a queste proposte? Ognuno ha gli avversari che si sceglie. Cosa vorrà dire ognuno ha gli avversari che si sceglie? Cioè, quindi loro si sono scelti... Bravo, infatti stavo dicendo, perché in realtà detta così è contro se stesso. È un po' ognuno ha gli avversari che si mette. Faccio notare a Richetti, però, che tra l'altro il branding sulla politica non è un'invenzione di Di Maio, purtroppo, è un'invenzione anche della sua fazione politica. Il Partito Democratico, insieme che sul branding di Macron abbia sfornato una serie di card su Facebook e simili già in tempi non sospetti. Senti Geppi Cucciari, che è veramente la mia maître à penser sulla coalizione PD. Il passo indietro più clamoroso di questo periodo è quello di Giuliano Pisapia. Renzi ha risposto con un passo in avanti, avendo il PD fatto una legge in cui si vince con le coalizioni. E allora vi comunico la lista degli alleati PD alle 21 di questa sera aggiornati. Al momento sarebbero Emma Bonino, che saluto, la ministra Lorenzin, che saluto, Pier Ferdinando Casini, che saluto, Sally Spectra di Beautiful gli eredi, Red Canzian dei Pooh, l'unica cosa red del partito, l'associazione Medici Dentisti Italiani e Gigro Bordacciaio, sembra il bar di Guerre Stellari. Perché le coalizioni saranno il grande problema vero, tecnico, di queste elezioni. È faticoso metterle su, bisogna pagare gli alleati metaforicamente, cioè dandogli dei seggi, bisogna convincerli, bisogna apparentarli, un bel casino. Beh, intanto registriamo uno che tanto tuonò che Pisapia alla fine. Pisapia è diventato un dogma, se ci pensi, nel senso che rimangono i pisapiani nonostante di Pisapia non sia mai giunto, una sorta di Godot della politica italiana. E poi sulle coalizioni, ieri guardavo i micropartiti, quelli che stanno nascendo proprio per cercare di accaparrarsi un seggio, ed è una cosa, secondo me, nemmeno Ionesco avrebbe potuto immaginare una campagna elettorale del genere. Ormai, pur di fare una coalizione, ci si inventerà l'amico immaginario di fianco al letto prima di andare a dormire. Allora, Salvini sul nuovo centrodestra, non siamo l'arca di Noè. I profughi sono quelli che scappano dalle guerre, non dai partiti inesistenti che hanno perso voti. Quindi non siamo l'arca di Noè, va bene che siamo sotto Natale, ma non siamo l'arca di Noè. Vabbè, quindi praticamente sarebbero un po' dei profughi questi del nuovo centrodestra. È cattivo Salvini, ma si sa, lui è sempre stato contro l'alleanza centrista. Invece Formigoni rivendica la sua distanza dal Partito Democratico. Noi siamo sempre stati un partito radicalmente diverso dal Partito Democratico. Anche la Merkel e i socialisti in Germania hanno collaborato 5 anni. Ma non è che la Merkel è diventata socialista alla fine dei 5 anni. Anzi, così noi, il livello del discorso pubblico è Salvini che per 4 anni ha detto no al fanno, no al fanno, no al fanno. Quando parla di noi, in pubblico deve dire che non ci vuole, ma capisce che il nostro contributo è importante, allora, e noi lo porteremo. Vizi privati e pubbliche virtù, ci credi a questa relazione, come dire, sotterranea fra le diverse anime del centrodestra? Ma sicuramente nel momento in cui tu crei una combriccola di persone che sono un po' ricattabili tra di loro, devono per forza rimanere amici tutta la vita, sai che funziona così. Fai attenzione perché Formigoni non è persona umile nonostante le sue credenze religiose, ogni tanto usa il noi come plurale maiestatico, ma sta parlando di se stesso. Allora senti, Susanna Ceccardi della Lega ha suscitato un piccolo pandemonio perché la sindaca di Cascina, che è diventata una nuova roccaforte leghista in Toscana, chi l'avrebbe detto, ha commentato alcuni dati sugli stipendi ai medici italiani e ha detto sì, è giusto che in Emilia Romagna un primario guadagni più che in Calabria, 127.000 euro contro 81.000 euro. Ho visto i dati della differenza di stipendi tra i medici calabresi e i medici dell'Emilia Romagna. Ci saremmo tutti stupiti negativamente se gli stipendi dei medici calabresi fossero stati più alti di quelli dell'Emilia Romagna. Meno male che non è così. Bisogna utilizzare il metodo meritocratico. Se i medici fanno meglio il loro lavoro, devono essere pagati di più. È un paese di a due velocità, no? 81.000 contro 127.000 per lo stesso lavoro. Ovviamente il costo della vita è più basso. Gli attori come se la cavano, Giulio? No, per gli attori il costo della vita è troppo alto, soprattutto per gli attori teatrali in qualsiasi parte d'Italia, quindi anche nei borghi più sperduti. Registro però che questo audio della sindaca leghista sarebbe, appunto, per tornare a Peppone Don Camillo, da mettere, sai, sulle macchine quando fai campagna elettorale per la città con il musicassetta? Ah, sì, col megafono, con le trombe. Sud, bravissimo, con le trombe, andare al sud per cercare di smuovere un po' la memoria di noi con Salvini, visto che Salvini poi va lì a prendersi i voti. e continua a fare una campagna elettorale. Però attento che lo penseranno anche molti del Partito Democratico al nord, lo penseranno molti centristi, cioè anche i partiti stanno diventando federalisti. Senti, Sposetti, qui mi fa morire, Ugo Sposetti, ex tesoriere, ultimo tesoriere della sinistra italiana, sta facendo la sua grande battaglia sui vitalizi ed è in orgasmo perché la legge Richetti sembra che sia ormai arenata. Il vitalizio, l'indennità parlamentare è stata inserita dopo lo statuto sabaudo, dopo il Parlamento sabaudo, per rendere libero il parlamentare, perché se il parlamentare non è pagato non è libero, c'è sempre qualcuno che lo paga. Sai che io sono d'accordo, sarò contro tendenza, ma ormai questa battaglia contro i più sprechi, i costi della politica, mi sembra che tocca il fondo, perché è un pretesto con cui si vuole togliere anche a tutti gli altri. Ma in realtà sul pagare bene i parlamentari, o meglio sul pagare bene tutta una classe dirigente di un paese, se il paese lo dirige bene, sono assolutamente d'accordo anch'io. Registro una nota simpatica: Richetti, anche dal punto di vista onomatopeico, non era l'uomo ideale per portare avanti una battaglia del genere. E tra l'altro registro però che le condizioni di lavoro e di diritti e di salari oggi sono un po' cambiate, quindi senza non siamo più nell'Ottocento, però resta il fatto che il tentativo di scavalcare con più di 5 stelle su questo terreno non è riuscito, perché poi se dici la legge è la legge più importante non la fai e ovviamente ti esponi agli attacchi. Voglio commentare con te perché è come voglio lanciare un tormentone di nuovo questa incredibile frase che abbiamo sentito ieri della figlia di Rina intervistata a Golia delle Iene. Mai visto un carabiniere? No, l'abbiamo visto, però non ci fermavano. Ma l'avete visto? Sì, però. E suo padre che faceva? Tranquillo era. La verità, siamo stati magari fortunati per 20 anni, voglio dire, perché se giravamo e non ci fermavamo nessuno. 24 anni di latitanza. Dico, abbiamo avuto pure fortuna. Molta. Giravate per Palermo? Anche? Sì, anche. Lui stava in casa? Mio padre non usciva. Usciva tranquillamente? Sì, normale. Ma si truccava, si metteva delle cose? No, normale. Vedi, tu ti sei ritrovato con la scorta per il tuo impegno antimafia e Rina girava tranquillo. Queste sono infatti io ero scottato, avevo paura di incontrare Rina che andava a prendere la tacchettina. Ma non ci si crede, sono le cose per cui uno dice questo paese va cambiato. Che dici? Assolutamente sì, ma del resto guarda che vedo che si stupiscono un po' tutti. Ma Lucia Rina in un'intervista su Panorama disse esattamente le stesse cose, anzi raccontò anche che Totò Riina tutte le sere era nel salotto a leggere la sua enciclopedia sulla Sicilia tranquillamente mentre lo cercavamo. Bene, e allora per fortuna è stato trovato ed è stato assicurato la giustizia. Ci fermiamo un attimo per le strade che mai come in queste ore è importante conoscere per il loro stato, per l'andamento, per il traffico, ma poi torniamo ovviamente con Giulio Cavalli e con il Già Svegli. Ma santo cielo, ma non avete niente di meglio da parlare? Già Svegli. Guarda, guarda quanto è bello Luca nostro cicciottello. Che lo figlio, il rispettoso, dice sempre che è adiposo, ma non perde il buon umore e condimo ogni mattina con la solita manfrina. Ciao Luca. I soldi e la felicità. I soldi non ti rendono felici. Lo sanno tutti i familiari e amici, e non ti dan la gioia che tu invochi, in special modo quando sono pochi. Ciao me. Luca, io ti devo ringraziare tanto per l'effetto sdrammatizzante che hai quando la mattina dai le notizie. Potresti annunciare la terza guerra mondiale senza suscitare il panico. Sei merce rara, eh? Un saluto. Luca, volevo solo verificare il numero. Domani ci sentiamo e ti racconterò qualche cosa di simpatico. Grazie, comunque vi ascolto tutte le mattine da che mondo è mondo. Buona giornata. Sì, i grandi rimatori, ma firmatevi con il vostro nome, così vi possiamo, ormai cioè, le voci le riconosciamo come se fossero di casa, però non ho la confidenza di dire grazie per questo ennesimo gorgheggio. Dopodiché Manfrina, Manfrina non è bello, la solita Manfrina, eh. Siamo sempre diversi, siamo sempre sorprendenti, sei sempre lì Giulio? E i tuoi figli dormono ancora? Sei nel terrazzo col telefonino nascosto? No. Sì, mi sto preparando psicologicamente a questo fine settimana in cui ho circa 12 partite di 12 sport diversi. È bello però, eh? E come ci si prepara poi? Si finge, si lascia il pupo nello spogliatoio e poi si scappa? Secondo me quella è la cosa migliore. Ma io poi sono un tifoso modesto. Nel senso che se mio figlio fa qualche punto o qualche meta, visto che i due giocano a rugby, mi alzo urlando, sono il papà. Altrimenti se fa qualche errore gravissimo dico ai miei vicini che sono separato da qualche anno. Ma loro ti cercano con lo sguardo? Mi cercano, sì. Diciamo che più che altro cercano da me consigli tattici, solo che fanno degli sport di cui non capisco assolutamente nulla. Vedi, Enrico, sempre un po' scorbutico con me. Poi se mi assento, se vado a prendere un caffè mentre c'è anche l'allenamento, dice papà, ma dov'eri? E vabbè, capita così. E so che questo ti interesserà. Ieri a Carta Bianca, momenti quasi drammatici nel duello fra Asi Argento e Vladimir Luxuria sul caso Weinstein. Ma viviamo in uno stato di diritto e io penso che per esempio il caso Brizzo, il caso Tornatore, debba avere tutta la possibilità comunque di difendersi. Certo. Guarda, dopo quello che avete scritto e detto, nessuna donna si fiderà di denunciare. No, cara! E voi no, il messaggio cara, che date alle donne è di oscurarsi il viso. Quando una prima acconsente e poi se ne pente, e allora sì che togli credibilità alle storie delle donne che veramente vengono violentate. Non eri in una villa, Asia, non eri in una villa isolata. Scusa, lui stava Vladimir, in un albergo, se ne potevi andare. Continua a dire che certo. Che l'ho voluto. Scusate, sembra Dio francamente mio. Allora, tu sei il compagno di Miriana Trevisan, che denunciò anche lei delle molestie, ti sei molto impegnato in questa battaglia, però ti devo dire, un po' controcorrente, che alcune cose che diceva Luxuria ieri non mi lasciavano del tutto esterrefatto. Cioè, lui dice, c'è una zona grigia in cui si può accettare, e a volte si accetta volontariamente, se uno ha un rapporto che è consensuale, che dura 5 anni, poi dopo non può dire sono stato stuprato. Questo diceva Luxuria. Ma sai Luca, innanzitutto non c'è stato nessun rapporto consensuale tra Asi Argento e Weinstein. Io divento feroce su questo. Registro tra l'altro che Vladimir Luxuria... Lei ieri un po' lo ha ammesso, ha detto quando Luxuria le ha detto sei stato 5 anni con questo produttore, ha avuto un rapporto stretto per 5 anni, Asi Argento ha risposto esiste la sindrome di Stoccolma. Ma io chiuderei in una stanza Vladimir con quelle donne che per anni rimangono di fianco a un marito magari violento per vedere se riesce a capire quale sia lo stato di soggezione, di soggiogamento che spesso non la donna ma chi tra i due ha meno potere si ritrova a vivere. Registro che Vladimir nella sua trasformazione ha mantenuto purtroppo i lati peggiori del maschio. Ho capito, bene, è un grande dibattito che attraversa il paese, ho l'impressione che non finirà. Senti cosa dice Lotti, ovviamente da ministro dello sport, torna sul caso Tavecchio, torna a dire che sta ai vertici del calcio dotarsi della giusta governance. Mi auguro che veramente i presidenti della Serie A si riescano a dotarsi finalmente di una governance. C'è chi ha scritto negli ultimi giorni, negli scorsi giorni, tutto è finito con le dimissioni di Tavecchio. No, noi abbiamo sempre detto che esiste un problema molto più ampio nel calcio che riguarda i diritti, che riguarda gli stadi, che riguarda la governance. E c'è grande agitazione nel calcio. Oggi, proprio le prime pagine stamattina, Gazzetta, Corriere dello Sport, il caso Gigio. Sai che potrebbe andarsene Donnarumma a metà campionato? Sì, anche lui è stato costretto psicologicamente, condizionato a firmare un contratto, poverino, un contratto da 6 milioni, lo hanno coercito con questi due spicci e lui ha firmato ma non voleva. Mamma sì, infatti mia. Sono solidale da tifoso del Torino, come sai io sono sempre nella schiera dei perdenti con i tifosi del Milan in questo momento. Registro una cosa interessante però. Un ministro gli andrà sport. Male se è così, se se ne va dicendo che lui ha firmato un contratto da 6 milioni di euro e 1,5 milioni al fratellino e non era consenziente. Beh, siamo veramente alla follia. Ma la carriera poi ti va male quando chiedi troppo. Io ho questa idea. Però ho visto che hai detto perdente, ma mica tanto perdente. Avete terremotato la Lazio, diagonale furibondo. Furibondo, senti. La VAR non dà interpretazioni, le interpretazioni sono sempre date dalle persone. Sì, parlo proprio di malafede. C'è un perché, contro la Lazio. Beh, evidentemente suscita un sospetto di questo tipo. I sospetti sono legittimi. E parlava della partita in cui il Torino ha vinto 3-1 con una bellissima partita per chi l'ha vista, proprio epica, combattuta contro la Lazio. Quindi siete stati altro che deboli. E qua la contestazione, il fallo di mano, che dici? Beh, dai, il fallo di mano penso che ci sia tutto. Ora noi siamo una repubblica basata sul sospetto, quindi sinceramente non so di cosa abbia subito la Lazio nelle ultime giornate e non entro nella discussione. Però quel rigore sicuramente c'era. Mamma mia, come sei sportivo, è una cosa da pazzi. Eh? Sì, domani avremo, credo, domani Mario Giordano, che lo è molto meno di te. Però chiudiamo in bellezza. Augias cita Gadda sulle cattive notizie. Questo è uno dei nostri difetti, quello di enfatizzare eccessivamente le notizie negative, cosa che non fa nessuno al mondo. Come lo diceva Carlo Emilio Gadda, che diceva: noi abbiamo la porca rogna dell'autodenigrazione. Vedi? E Gennaro Cortese su Twitter, perché anche da lì ci arrivano messaggi, mi grida a me di Spelacchio, non me ne frega un fico secco. Vabbè Gennaro, facciamoci una ragione. Ci fermiamo, grazie a Giulio Cavalli e poi torniamo con la rassegna stampa fra poco. Ciao!